Battaglia di Tripoli, peso più odore, parole in libertà, mezzogiorno, tre quarti, laudi, genti, solleone, tum tum. Ta ta ta ta ta ta ta ta, aromi, zafferano, catrame, uovo fradicio, cane bagnato, gelsomino, gaggia, sandalo, garofano, maturato, intensificarsi, ribollimento, fermentare, tuberosa, imputridire, farfagliarsi, furia, morire, disgregarsi, a pezzi, a briciole, polvere, eroismo, ta ta ta ta ta ta ta, sole, oro, bilancia, piatti d'oro, piombo fuso, cielo di seta, imbottitura, porpora, azzurro, torrefazione, sole uguale vulcano più 3000 bandiere, atmosfera di precisione, corrida, furia, chirurgia, lampade, lampade, lampade.